passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on. Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Ed eccoci tornati sulle frequenze degli 87.9. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e tutti. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che tutti i giovedì dalle 8 più o meno alle 9 e mezzo legge libri per voi. Prima di immergerci nella puntata, e ci teniamo a ricordare che questa è una radio libera, che non ha sponsor, non ha padroni né padrini, e quindi per rimanere libera ha insomma bisogno anche di un supporto da parte di chi la ascolta. Per appunto supportare le nostre frequenze potrete trovare tutte le informazioni sul nostro sito. C'è da aggiungere anche che è uscita la Scarceranda del 2024, che è un'agenda contro il carcere autoprodotta dal 1999, e potrete trovare le informazioni e i luoghi dove potrete trovarla a carceranda.ondarossa.info. Per ogni copia acquistata, come sempre, una copia viene inviata gratuitamente in carcere a chi ne fa richiesta. Sempre lo stesso indirizzo di qui sopra, che vi ho detto, scarceranda.ondarossa.info, per segnalare indirizzi a cui spedirla. Oggi è 23 novembre, sono due giorni prima del 25, che sarà la giornata contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, e quindi una violenza che ci teniamo a ricordare e sottolineare, che è una violenza sistemica e strutturale, e quindi è proprio di questa società patriarcale e capitalista. E quindi la puntata di oggi, dedicata ai saggi, parlerà di streghe isteriche e untrici, edito da Anarco Queer, uscito nel marzo del 2023, un saggio di 165 pagine, e lo faremo con una delle curatrici. Proseguiremo poi con Non sono una donna, io, di Belux, edito per Tamu Edizioni, che potete trovare al costo di 18 euro, e ne parleremo con la traduttrice, che è Federica Fugazzotto, e concluderemo con Ideologia Gender, edito per Editori La Terza, che è un saggio di 160 pagine, che al costo di 15 euro, e lo faremo con la sua autrice, Laura Schettini. Name on. at work forces are the same that burn crosses. Some of those at work forces are the same that burn crosses. Some of those at work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Eccoci tornate, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre Tabula Rasa, la trasmissione che legge libri per voi. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo per essere con noi una delle curatrici del primo libro che presenteremo questa sera. Ciao! Ciao, vi sento malissimo! Ci senti malissimo adesso? Meglio? Molto male! Sì, eh? Mannaggia. Adesso ci sei? Ci sei? Sì, sì. Adesso mi senti un po' meglio? In realtà abbastanza male lo stesso, però ci proviamo. Perché io ti sento benissimo, non capisco che cosa sia successo, ma questa cosa è fantastica, come al solito. Ci sono gli inghippi tecnici una catastrofe, benissimo. Allora, se diventa proprio incomprensibile, me lo dici che provo, magari proviamo a invertire e magari ti richiamo, ok? Se non riesci proprio a capire quello che dico. Ok, vai. Ok. Allora, tu sei la curatrice del libro Streghe, Isteriche e Untrici, il ruolo della medicina nella repressione delle donne. Sono due testi di Barbara Ehrenreich e Deirdre English, edito per Anarcho Queer. È un'edizione molto recente ed è una riedizione, perché questo testo in realtà sono due saggi dal titolo Streghe, Levatrici e Infermiere, una storia di guaritrici, e Malesseri e disturbi, la politica sessuale della malattia. Sono due testi degli anni 70 che erano già stati pubblicati e tradotti in italiano. Voi vi siete poi invece occupate di ritradurre questi due testi, e la cosa interessante è anche il lavoro che c'è stato dietro, molto apprezzato è ad esempio un apparato di note notevole e quindi un'attenzione anche a un utilizzo delle parole che anche è cambiato in 50 anni e anche una situazione politica e della componente medica nella società occidentale. Si parla degli Stati Uniti, che comunque qualche modifica ovviamente ce l'ha avuta, e voi ci tenete a sottolineare questo aspetto, che per me è una cosa molto importante. Le due autrici, prima di lasciarti la parola, sono due autrici che hanno un'attenzione particolare per un approccio storico, quindi un approccio che sia speculativo, ma sono attiviste, quindi sono calate nella realtà e nella sua complessità, cercando anche ovviamente di guardare a quelli che non sono solo i modelli egemonici, o comunque quali sono stati anche i movimenti sotterranei e non, che hanno determinato quei modelli, che si sono poi affermati e fossilizzati in un certo senso. Ci vuoi un po' contestualizzare questo testo, che oltretutto viene pubblicato e nasce tra il periodo della fine del Covid e il periodo all'alba della decisione dell'abolizione della sentenza Roe Wade, in cui si era deciso di legalizzare l'aborto negli Stati Uniti. Quindi diciamo che la necessità di avere il controllo sul proprio corpo è abbastanza in primo piano. Ci vuoi intanto iniziare a fare un punto, a contestualizzare quello che è stato anche per voi tradurre questo testo? Certo, grazie intanto dell'invito e dello spazio. Allora, comincerei dicendo che il libro l'abbiamo curato in tre, È nato un po' casualmente perché abbiamo riscoperto ognuno per sé questo testo appunto durante il periodo del Covid, proprio insomma mossi anche dalla centralità che la diffusione del virus e quindi il tema della salute ha assunto in quel periodo lì, e anche seppur con sfumature diverse, condividendo una certa avversione, per dirla morbida, alla gestione autoritaria insomma di quel periodo. E casualmente appunto abbiamo scoperto tutte e tre di aver ritrovato questo testo che ci era sembrato veramente attuale sotto molti punti di vista. L'idea iniziale era quello semplicemente di rieditarlo, ma lavorandosi e confrontando in alcuni passaggi, poi il testo tradotto negli anni 70 in Italia, nel 75, e i testi originali di pochi anni precedenti, che sono appunto stati pubblicati negli Stati Uniti, e ci siamo resi conto che c'erano sia degli errori di traduzione, ma sia anche delle scelte di traduzione che magari avevano un portato, passami il termine, politico, nel senso davano dei significati che corrispondevano a quel periodo storico, cioè gli anni 70 in Italia, e che secondo noi non erano più adeguati al nostro presente. Un esempio insomma su tutti, la scelta di utilizzare per la declinazione neutra, quando non è specificato il genere delle persone di cui si parla, o anche molto semplicemente tornare all'originale uso del termine donne come plurale, piuttosto che la scelta fatta invece dalle traduttrici italiane degli anni 70 di utilizzare invece il singolare. Probabilmente, abbiamo ipotizzato, espressione di un'idea uniforme, diciamo, del genere femminile. Questo giusto per dare qualche cenno. Chiaramente poi nell'introduzione spieghiamo anche meglio tutte queste scelte. Ci tengo anche a precisare che come curatrici mi sembra giusto posizionarci dal punto di vista dell'identità di genere. Siamo due donne cis, e quindi che ci riconosciamo nel genere che ci è stato assegnato alla nascita, e un compagno invece trans che ha fatto una transizione anche medicalizzata. Ci tengo a soffermarmi brevemente su questo punto perché molto spesso, e questa è sicuramente una delle esigenze che ci ha mosse a confrontarci sul tema, crediamo che la critica oggigiorno alla medicina e più in generale alla tecnologia, alla scienza, assuma troppo spesso un carattere moralizzatore, quantomeno delle scelte individuali, e abbia spesso delle derive transfobiche e sessiste. E spesso si basa, diciamo, si fonda sul principio della cosiddetta coerenza, e quindi che interviene sulle scelte individuali, principio che a me non sembra così interessante, anzi forse anche un po' controproducente per chi vuole portare delle idee un po' diverse dalla media egemone. Questo è un piccolo passaggio su quanto ci riguarda. Certo. Ecco. Per quanto riguarda invece l'origine di questo testo, va contestualizzato nel periodo della seconda ondata del femminismo, quando fondamentalmente aumenta, diciamo, l'interesse rispetto al corpo. Perché? Perché ci si rende conto che ci si trova davanti a un sistema medico che è completamente dominato dal genere maschile, quindi che la presenza femminile all'interno del sistema medico è assolutamente minoritaria e marginale da una parte, e dall'altro lato che sono praticate una serie di atrocità sul corpo delle donne. Pensiamo alle esterectomie, alle mastectomie non necessarie, piuttosto che all'ipermedicalizzazione. È un passaggio cruciale sicuramente, e questo è il frutto anche poi della nascita, insomma, delle varie esperienze di consultori piuttosto che di gruppi di autoaiuto, eccetera eccetera, è proprio quello di riappropriarsi del sapere sul proprio corpo. Un esempio forse banale, quando pensiamo alle sterilizzazioni forzate fatte dagli Stati Uniti a Porto Rico, ad esempio, siamo nella seconda parte del Novecento, continuano fino agli anni 60. Quando parliamo di forzate non intendiamo di donne prese e trasportate negli ospedali per essere sterilizzate, ma di donne in qualche modo a cui non viene detto, o che non hanno consapevolezza dell'intervento che verrà fatto su di loro, o di eventuali alternative per non avere figli. Questo è il quadro. E quindi da questo punto di vista le autrici si danno un contributo, no? Loro lo chiamano così, danno uno slancio sperando che possa essere raccolto e portato avanti rispetto alla storia, quindi al pezzo di storia del patriarcato che racconta un po' come si è arrivati a quel momento storico, cioè agli anni 70, anche a quel processo di espropriazione che ha origini molto più antiche. E appunto, con, come dicevi, le origini antiche vengono esplorate a partire con il primo saggio da quella che è stata definita appunto la caccia alle streghe, ha segnato due secoli, insomma è iniziata nel tardo medioevo, Rinascimento. Questa è una pratica che nel libro viene descritta, poi ovviamente viene anche raccontata la differenza tra la figura di quella che è stata appunto la guaritrice e anche l'autorevolezza a livello popolare che la guaritrice, in quanto anche levatrice, aveva delle conoscenze mediche ovviamente basate sulla propria esperienza empirica, era anche un erborista delle classi ovviamente meno agiate, la differenza tra la guaritrice e quella che poi è diventata guaritrice e poi definita strega e quello che è stato poi la figura accademica, istituzionalizzata e formalizzata di medico uomo. Diciamo che l'aspetto interessante, oltre a ripercorrere la storia e comunque dare degli accenni storici, le due autrici sono molto brevi e anche molto chiare e molto dense, per cui è un testo che si legge anche molto molto facilmente. Questo non vuol dire che sia assolutamente non che sia povero di idee, insomma, ma è assolutamente un libro che può, ripeto, creare, come dicono loro, orizzonti altri, perché che è quello anche che si augurano dopo la lettura, insomma, di continuare un po' la riflessione e la lotta soprattutto. Cosa volevo dire? Insomma, il discorso del passaggio anche da una visione del passaggio di testimone da una visione religiosa a una visione scientifica e politica, e della responsabilità che ha visto non solo l'istituzione ecclesiastica ma anche quella proprio, cioè politica, cioè la parte istituzionalizzata. Il Malleus Maleficarum era un testo di riferimento di cui magari ci potrei parlare parlando anche attraverso le parole del libro, che era presente sui tavoli dei tribunali, e non a caso oltretutto il capitalismo nasce anche in quel momento lì, insomma, quindi il discorso della colonizzazione, delle conquiste geografiche da parte dell'Europa, perché la scoperta è un termine che mi piace fino a un certo punto, il commercio, insomma, la proprietà privata, insomma tutte cose che conosciamo bene. Quindi riportare anche a una contestualizzazione di questo tipo è un taglio e una lettura estremamente interessante. Tu che ne dici? Ci sei? Allora, non ti ho interrotta, sì, ma ho sentito veramente a tratti. No. Hai capito più o meno il senso della riflessione, cioè della domanda, oppure è una... Allora, guarda, è ho capito Malleus Maleficarum e streghe. Non nascita del capitalismo e potere del passaggio dalla religione all'impianto scientifico. Ok, fantastico. Diciamo che allora con questi elementi costruisci... No, sto scherzando. Va bene, è diventato un gioco, sembra tabù, ma ce la faremo. No, allora, raccolgo queste parole che sono quelle che ho intuito. Sì, come dicevamo, il loro tentativo è appunto quello di, anche un po', se vogliamo, di riscrivere la storia, no? Ovviamente è sempre il frutto dei vinti, esistono delle storie di parte, e quella delle donne è una storia un po' a sé. Sicuramente questo passaggio, sono moltissimi chiaramente gli spunti che vengono dati, ma almeno a parer mio uno degli aspetti centrali nella parte in cui loro raccontano della persecuzione delle streghe oltre che chiaramente ricordare, forse adesso insomma è abbastanza pacifico, che quando parliamo di streghe molto spesso parliamo in realtà semplicemente di donne dissidenti o di varie o comunque di varie personalità dissidenti rispetto al sistema egemone. E uno dei ruoli che chiaramente doveva essere represso, chiaramente no, che doveva essere represso in una fase in cui si iniziavano ad affermare, a uscire i primi medici, i primi corsi universitari, parliamo chiaramente di una medicina che si fondava sullo studio di Platone e Aristotele, quindi un'idea veramente lontana anche da quello che intendiamo oggi. Comunque queste figure che potevano anche in qualche modo entrare in contraddizione, in contrapposizione con quella che era la figura del medico, dovevano essere eliminate. Dovevano essere eliminate perché il medico, a differenza loro, sottostava diciamo ai criteri e ai crismi che invece erano propri della Chiesa. Quindi per curare il mal di denti si fanno tre segni della croce sulla guancia, piuttosto che prendere l'erba che invece era testata da madri, figlie e passata di generazione in generazione con un metodo empirico, cioè semplicemente quello di provare, e che rispettava anche semplicemente il principio di non far del male alla persona, cosa che le pratiche tipo il salasso o qualsiasi altra cosa molto spesso, appunto, oltre a non funzionare, erano anche deleterie. E quindi un po' contro quella che è la narrazione che ci è arrivata, per cui c'era la caccia alle streghe a colpa della religione, che comunque era un po' così, un po' razionale, un po' poco scientifica, era presa così. Poi per fortuna è arrivata la scienza, che invece ha chiarito bene come erano le cose. Molto semplicemente le autrici ci dicono che invece questi due poteri, chiamiamoli così, hanno collaborato nel reprimere e fisicamente uccidere e torturare centinaia, se non migliaia, anzi, di donne. Appunto citavi il Malleus, che era il manuale scritto da due figure della Chiesa per indicare come sostanzialmente accusare le streghe. E per citare un passaggio, qualcuno dicevano: se qualcuno chiede come sia possibile distinguere tra malattie causate da stregoneria e malattie dovute a cause fisiche e naturali, rispondiamo che ciò è rimesso al giudizio dei medici. Oppure, se una donna osa curare senza aver studiato, è una strega e deve morire. Il che diciamo chiarisce e circoscrive anche il senso e il campo, tra gli altri ovviamente, di quest'opera di repressione, un'opera di repressione che poi passa negli anni, perché chiaramente da che la strega, cioè la, di fatto poi diremo noi oggi, la guaritrice, era colei che era profondamente empirica, perché le sue conoscenze si basavano proprio sull'uso, sulla sperimentazione, sulla conoscenza del territorio, delle erbe, delle pratiche, grazie a questo a quest'opera, diciamo, di repressione e propaganda, sono loro che diventano, sono le guaritrici che diventano le streghe, diventano invece l'emblema dell'opposto, cioè della superstizione, dell'irrazionale e dell'occulto, mentre il medico si diciamo afferma come la figura della ragione. Mi senti? Sì, ti sento assolutamente. Tu mi senti, no? Perché volevo fare una... Mi senti meglio così? Ora sì. Ah, wow. Vabbè, sì, ti sento, no, perché sennò mettevo un po' di musica e provavo a chiamarti in un altro modo, e quindi, però se adesso mi senti va benissimo così, insomma. Sì, comunque ci sono, ero in ascolto di quello che stavi assolutamente dicendo. Comunque, ecco, quello che hai composto anche rispetto alle mie parole rappresentano quello che in realtà le ho assolutamente colto, nel senso che comunque un elemento importante che non sempre viene, appunto, sottolineato e messo in evidenza. E visto che comunque il capitalismo distrugge ciò che non può controllare, diciamo, tendenzialmente, passerei a delineare un po' il secondo saggio prima di salutarci, che è un saggio appunto che si occupa, che ha una, diciamo, il cui aspetto importante è anche la differenziazione del trattamento, se vogliamo dire sanitario, comunque medico sanitario, negli Stati Uniti dell'Ottocento, quindi in pieno anche epoca boom, primo boom industriale, insomma rivoluzione industriale, e quindi non solo quelle che possono essere le categorie teoriche per cui appunto la donna, il corpo della donna veniva pensato e si poteva trattare in un certo modo, ma poi c'era una differenziazione fortissima di classe. Non solo la tipologia di trattamento e la tipologia di malattia, quindi ritorniamo sempre, anche la patologia, come veniva considerata, se da una parte le classi popolari, comunque le lavoratrici, potevano lavorare 14 ore ed erano assolutamente più robuste, anche se poi le malattie ovviamente erano diffusissime perché le condizioni di vita erano pessime, ovviamente le possibilità di curarsi ancora di meno. Invece le donne della media alta, dei ceti più alti, erano delle donne il cui stato veniva anche definito, quasi c'era questa sorta di vulnerabilità, questa delicatezza, questo dover essere sempre molto attente ai propri umori. Posto poi tutta la definizione delle varie malattie, per cui l'isteria e tutto quello che invece è stato poi definito, ma c'era appunto un trattamento estremamente differenziato. Quindi poi queste categorie nella pratica erano estremamente funzionali a gestire situazioni completamente diverse per un beneficio di una classe dominante prettamente maschile. Quindi ci vuoi un secondo parlare di questo? Sì, molto volentieri. Sì, nel secondo testo le autrici si soffermano sul, diciamo, un'ulteriore fase cruciale della formazione della medicina, quindi siamo tra 800 e primi del 900. Ed è estremamente interessante questa parte perché emerge come uno stesso interesse, di fatto uno stesso sguardo di dominio, okay, si articola in modo diverso in base, in questo caso nell'esempio che fanno loro, alla classe di appartenenza. Quindi è come poi di fatto la scienza contribuisca a questa opera. Quindi in qualche modo in questo momento storico si concentrano su due figure, poi noi le abbiamo, diciamo, riassunte così, l'isterica e l'untrice, e quindi da un lato la donna agiata, come dicevi tu, le donne appartenenti alle classi più alte, si diffonde una sorta di mito della donna fragile, della donna debole e malata, che la scienza giustifica con la cosiddetta, col principio scientifico della conservazione dell'energia, che oggi ci farebbe molto ridere, però in sostanza il punto è che c'è un'energia limitata nel nostro corpo, quindi o la usa un organo o la usa un altro. Ovviamente l'organo raccoglie tutte le energie, che sfrutta tutte le energie della donna, sono l'ovaie, poi deve fare i figli, quindi ovviamente è bene che risparmi su altro e si concentri sulle ovaie, e perciò si riposi al massimo affinché queste possano funzionare. Da qui a sostenere che da appunto l'apparato riproduttivo derivi qualsiasi aspetto della personalità di una donna è passato un secondo, e da qui fondamentalmente l'isteria, cioè una non malattia fondamentalmente, per cui ma più che altro uno strumento per cui qualsiasi forma di anomalia, di non so, rabbia, piuttosto che anche insofferenza. Ci sei? Sì, no, dicevo disobbedienza. Ok. L'insofferenza per la condizione in cui si è, viene ricondotta sotto questo termine isteria, con tutte le pratiche conseguenti. Secondo le autrici, con testi che, riportando diversi testi che parlano in questo senso, è sicuramente una cosa funzionale a trovare delle clienti per la nuova classe medica, e ovviamente le clienti sono quelle che pagano. Dall'altro lato, quindi, se le ovaie sono ciò che sconvolgono la donna, per cui non riesce a far altro se non star ferma, questa regola vale solo però per le donne di classe agiata, perché nello stesso momento, esattamente nello stesso istante, ci sono centinaia e migliaia invece di donne che sì, nei nuovi nuclei urbani che si creano sulla base, insomma, dell'industrializzazione nascente, ci lavorano decine e decine di ore al giorno in pessime condizioni e che ovviamente invece loro stanno benissimo e non hanno alcun problema. L'unico momento in cui come dire, le classi dominanti, chiamiamole così per velocità, insomma, iniziano a preoccuparsi invece delle condizioni delle donne che vivono in tutt'altro stato, è quando si inizia a diffondere la teoria epidemiologica, cioè l'idea che le malattie si diffondano tramite germi, sporcizia e non solo. E quindi il problema delle condizioni di vita del resto del mondo, insomma, del resto del mondo no, insomma, delle comunità, la parte di vita degli operai, eccetera, inizia a essere problematica perché loro portano le malattie. E qui si interviene, qui nasce di base anche l'idea della sanità pubblica, questo è l'origine, e quindi si interviene, come purtroppo molto spesso accade, con un approccio in primis e soprattutto repressivo. Quindi gli istituti di, insomma, i sistemi di polizia e di controllo iniziano a lavorare passo passo proprio per cercare di limitare le prime, insomma, la diffusione di colera, tifo, piuttosto che celebre per loro, non per noi, ma abbiamo, insomma, riportato la storia, ad esempio è Maria la tifoide, cioè questa donna che era portatrice sana di tifo, così pare, e che lavorando semplicemente in varie strutture di fatto ha causato, insomma, la diffusione di questo male, e più volte hanno cercato di arrestarla mentre lei si scappava e liberava, e quindi è stato un po' un caso ed è diventato l'emblema della donna autrice, giusto per dire due cose sul punto. Se ne sarebbero molte di più. Esatto. E però siamo in chiusura, purtroppo mi dispiace tantissimo che non ci siamo sentite male per metà della chiacchiera, però comunque secondo me il punto, i vari punti sono stati centrati, e comunque, anzi, questo sentire e non sentire magari ha creato a maggiore interesse per le ascoltatrici e gli ascoltatori di andarsi a recuperare questo fantastico libro, che la nostra chiacchiera si termina con una domanda di rito che noi facciamo a tutte le ospiti, che è: quale consiglio di lettura dai? Quindi un libro. Allora, suggerirei, vai. Sullo stesso, diciamo, sulla stessa onda di rivediamo un po' la storia, direi che suggerirei L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità, di David Graeber e David Wengrow, che sono un antropologo che, cercando di raccogliere i risultati delle ricerche in questi due campi, provano un po' a riscrivere o a riragionare su, appunto, sull'evoluzione della storia per come fin qui è stata raccontata. Sempre. Ottimo, ottimo. Obiettivi poco alti. Esatto, ottimo consiglio, ottimo consiglio di lettura. Ed allora ti ringraziamo e ti auguriamo una buona serata, e magari ci sentiamo presto per una prossima pubblicazione. Ciao, buona serata. Grazie, ciao ciao. Ciao, ciao ciao. Conscience to keep watch over me, to protect me from myself, so I can wear honesty like a crown on my head when I walk into the promised land. We've been too long American dreaming. I think we've all lost the way. In the dark, I'm in love. that hides the pain within her. And we'll go dancing in rings of laughter that need along by the shores. Fair along in the rounds of rapture, sleeping long for the lost. Yeah, on a lead rising wind blows. Yeah, on a lead rising wind blows. How long, how long? E passiamo al secondo saggio di questa sera, che è L'ideologia gender è pericolosa, e lo facciamo con la sua autrice Laura Schettini. Ciao Laura. Ciao, ciao a tutti, ciao, a tutti. Ciao, benvenuta su Tabula Rasa. E questo saggio è edito per gli editori La Terza, nella collana Fact Checking, che è questa collana che utilizzando dei luoghi comuni già nel titolo, che tendenzialmente appartengono a dei falsi storici, cerca poi appunto nei libri di ristabilire quella che è una verità storica, anche se questo concetto in questo caso specifico lo metterei un attimo tra virgolette. Non so se tu avevi qualcosa da aggiungere su questo. Vi devo dare una tristissima notizia, sento anche io molto male. Ok, allora mandiamo un secondo, uno stacco musicale, cerchiamo di risolvere i problemi e ci risentiamo. Ciao. Turn back by the foot of the doorway, lives lost and found. We've been too long American dreaming, I think we've all lost the heart. Fair long, somnambulistic, maniacal in the dark. Eccoci ritornati, sperando di aver risolto i problemi. Perfettamente. Si sente o no? Sì, okay. Adesso sì. Perfetto, ci siamo. E quindi stavamo dicendo che questa sera siamo qui con te per presentare il tuo saggio, che è stato è uscito recentemente per editori La Terza, L'ideologia gender è pericolosa. Questo libro fa parte di una collana appunto, che è quella di Fact Checking, che utilizzando già nel titolo quelle che sono dei luoghi comuni, delle frasi che vengono utilizzate in realtà per propagandare dei falsi storici, in realtà poi all'interno dei libri vengono rimaneggiati per dimostrare che in verità, insomma, che la verità è un'altra. E ti stavo chiedendo prima se tu su questo avevi qualcosa da aggiungere. No, no, direi che è un'ottima presentazione sia della collana che del contesto appunto in cui si inserisce il libro. In questo caso direi che più che rimaneggiare si tratta proprio di ribaltare, no? Di ribaltare dei luoghi comuni, anche delle campagne di opinioni, perché poi non sono frasi sussurrate, sono campagne che delle volte assumono anche proprio dei tratti di campagne d'odio e che comunque hanno degli effetti pratici e concreti sulla vita delle persone. In questo caso, diciamo, il tema è quello del gender e quindi potete immaginare, visto quanto è riecheggiato e riecheggia nel dibattito pubblico, tutto quello che si gioca intorno a questo termine nel dibattito politico contemporaneo. Sì, sì, anche perché ormai il genere sappiamo essere al centro del dibattito sia pubblico che ovviamente politico. E nel tuo libro L'ideologia genere è pericolosa, diciamo che è un libro che si struttura in tre grandi capitoli. Se ci vuoi raccontare quali sono? Sì, sì, sì, certo. Allora, diciamo che io sono partita, come appunto stavo accennando prima, da una considerazione frutto anche, diciamo, di esperienze che mi sono capitate facendo lezioni di storia delle donne e di genere, e la considerazione iniziale era il fatto che oggi c'è un gran parlare di questione di genere, di gender, grande mobilitazione a destra e a sinistra, ma diciamo si è finiti un po' con il perdere il senso, il significato, anche proprio il valore che questa categoria, questa parola aveva quando è stata introdotta nelle scienze sociali, quando è stata introdotta anche come categoria politica. Per cui nella prima parte del libro, che è la parte, diciamo, più vicina alla contemporaneità, ai fatti dei nostri giorni, provo a ricostruire un po', ed è appunto non a caso intitolato Confusioni di genere questo capitolo, provo a raccontare un po', a partire, diciamo, dalla campagna anti-gender messa in piedi dalle destre populiste e dal Vaticano a partire dagli anni 90, compiutamente dalla metà degli anni 90, e provo a ricostruire anche che storia ha avuto questa campagna, per cui è nata come una campagna antifemminista in maniera esplicita, che accusava le femministe di aver introdotto il genere per minacciare la famiglia naturale, che può essere anche felicemente tradotta come famiglia patriarcale, e poi provo a ricostruire come invece a partire dagli anni 2000 si è progressivamente spostato il significato attribuito al gender e ai pericoli che arrecherebbe, per cui sicuramente a partire dagli anni 2000 si è provato a espellere dal dibattito pubblico la questione del patriarcato, della critica femminista, e ci si è concentrati maggiormente su una declinazione diversa di gender, per cui oggi sappiamo che nella campagna anti-gender il gender starebbe a rappresentare la fine della differenza sessuale, e poi in ultima analisi negli ultimissimi anni è addirittura arrivato a assumere il significato di qualcosa che minaccia la stessa identità delle donne. Per cui con una parabola, diciamo, molto significativa, si è passati dal considerare il genere come un qualcosa voluto dalle femministe per attaccare la famiglia patriarcale, a qualcosa che invece mette in pericolo, sempre per opera delle femministe, la identità delle donne, ma anche i diritti delle donne. Ovviamente è la donna che è al centro della scena in queste narrazioni. È prima di tutto una donna madre, una donna schiacciata sulla sua identità biologica e sulla sua presunta vocazione materna. E nel secondo capitolo invece, che è intitolato Il genere e la sua storia prima e oltre l'ideologia del gender, provo a raccontare proprio che cosa è invece la critica femminista alla storia e perché è stata inventata la categoria del genere, perché è stata introdotta negli studi e anche, ripeto, nel linguaggio politico, nei movimenti politici, per cui racconto prima i movimenti femministi degli anni 70 e la critica alla, diciamo, all'ordine patriarcale, alla famiglia, al concetto di naturalità, e poi racconto appunto i significati che ha assunto l'utilità, ecco, più che significati, l'utilità che ha avuto questa categoria di genere per raccontare come appunto quello che le donne avevano vissuto nella storia, la condizione, diciamo, di subalternità, anche se a me non piace questo termine, però diciamo l'oppressione subita dalle donne non era legata alla loro identità biologica, non era legata alla loro natura ovviamente, ma era una dinamica di potere, una dinamica di potere che si era costruita nella storia. E niente, nell'ultimo capitolo invece, che gioca un po' con il secondo, si chiama L'ideologia del gender e la sua storia, prima e oltre l'invenzione del genere, ho provato a riraccontare la storia di questa ossessione per la differenza sessuale e per la categoria del naturale, per diciamo dei ruoli e dei modelli, dei vissuti che sarebbero ancorati a una presunta natura maschile e femminile, a una presunta forma di famiglia che sarebbe l'unica naturale normale, così come solo una sarebbe la sessualità come dire sana e normale da difendere. Ecco, cerco di raccontare a partire dalla nascita della nazione, quindi dalla seconda metà dell'Ottocento, come diciamo questo discorso pubblico sulla differenza sessuale, questo valore politico assegnato alla differenza sessuale, abbia poi attraversato tutta la nostra storia nazionale, a seconda appunto poi dei periodi e dei contesti, con declinazioni diverse, ma fino ad arrivare a oggi. Sì, la cosa poi, tra l'altro, secondo me importante è anche che in questo libro emerge chiaramente come la storia dei femminismi, ma anche la storia delle donne, quindi la storia delle donne, la storia delle soggettività non binarie, la storia di chi appartiene comunque a una minoranza, sia una storia che viene volutamente sottaciuta, una storia che non viene, nella contemporaneità ovviamente sì, ma che volutamente non è stata raccontata, e non è stata raccontata perché ovviamente senza quella roba, cioè senza una storia, senza un vissuto che viene poi effettivamente raccontato, cioè una forma di violenza anche quella da parte, certo, di certo. Da parte insomma di questa società capitalista nella quale patriarcale, nella quale viviamo. E proprio il lavoro poi che è stato fatto dagli anni 80 in poi è stato quello di recuperare e cercare di appunto rendere effettivamente storia tutti gli avvenimenti che sono successi, perché effettivamente poi ad esempio le donne nella storia ci sono sempre state, solo che non è stato raccontato che ci fossero. E fai anche alcuni esempi su questo, no? Ad esempio come le donne hanno partecipato alla resistenza, ma anche dei racconti di altri e diversi, come ad esempio le donne che furono deportate e di cui appunto raramente veniva raccontato, ecco. Sì, assolutamente, questo che hai toccato credo sia un punto centrale, nel senso che credo che non a caso questo sia un libro di storia, nel senso che se c'è uno sguardo, una prospettiva che contraddice immediatamente la categoria del naturale e quindi anche della immodificabilità, no? di un ordine, di un sistema, è proprio lo sguardo storico, è quello che guarda le trasformazioni, che guarda anche alla variabilità, non solo nel tempo ma anche in uno stesso contesto. Non aver raccontato che nel passato sono esistite forme diverse di famiglie rispetto a quella appunto eterosessuale e costruita su una precisa suddivisione dei compiti o non aver raccontato le altre forme di relazioni affettive serve, diciamo, a rappresentare sempre come un'emergenza della modernità degli ultimi anni fenomeni che invece hanno come dire alle spalle una altrettanto forte legittimazione, perché diciamo hanno una storia, hanno un lungo percorso alle spalle. Questo poi d'altra parte pone un'altra questione che è quella che io cerco di discutere quando ho parlato di resistenza, quando ho parlato di deportazioni femminili, ma quando ho parlato di migrazioni, di lavoro delle donne. L'altra questione che viene alla luce è il fatto che però poi se noi andiamo a recuperare la storia di questi soggetti, di queste soggettività che sono state silenziate, invisibilizzate dalla storia ufficiale, ecco, i quadri cambiano un po'. E per esempio quello che scopriamo è che uomini e donne non hanno vissuto le stesse esperienze, che per esempio sistemi normativi avversi, leggi, norme, pratiche sociali hanno condizionato profondamente la storia delle donne, e cosa che potrebbe ovviamente sembrare una banalità, ma forse l'elemento di maggiore interesse è il fatto che poi nella storia delle donne il modo in cui è stato rappresentato il loro corpo, la loro sessualità è qualcosa di veramente molto ingombrante. Tu prima parlavi della deportazione femminile, e quello che gli studi sulla deportazione femminile ci raccontano è che per esempio quella memoria lì è stata una memoria impossibile da conservare, da tramandare, perché automaticamente le donne deportate erano percepite come delle potenziali, o comunque di loro si diceva chissà cosa hanno passato lassù, sono state sicuramente violentate e quindi disonorate rispetto al sistema dei valori dominanti. Ma la stessa cosa riguarda per esempio le donne migranti. Noi abbiamo una lunga storia di migrazioni femminili che è stata molto poco raccontata, e quando siamo andate a studiarla come storiche è venuto alla luce che il ruolo che la sessualità, diciamo lo sguardo maschile sulla sessualità femminile, anche in quel caso è stato ingombrante, per cui le donne migranti sole sono automaticamente delle donne che possono essere a rischio, o sono delle prostitute, oppure minacciano il buon nome della nazione e quant'altro. Cioè, quello che voglio dire è che poi nella storia delle donne il corpo, diciamo, ha occupato uno spazio ingombrante, e non sempre per scelta, cioè perché questa è una, diciamo, condizione a cui in cui vengono ripetutamente sospinte. Sì, tu parlavi di tramandare. Una cosa molto interessante che ho trovato in realtà nel tuo libro è che anche diciamo che le forme con le quali poi effettivamente si sono tramandate storie sono diverse, innanzitutto perché ad esempio anche diciamo la storia femminile, la storia delle donne e di genere nasce in realtà in ambienti indipendenti, collettivi, dove diciamo è arrivata in seguito in realtà negli ambienti accademici. E questo ci racconta forse anche, passando poi alla domanda che ti volevo fare, che le forme con le quali si è tramandata questa storia sono diverse, sono ad esempio la forma orale, se si tratta appunto di delle classi più povere. Se invece parliamo della borghesia troviamo i diari, eccetera. Anche questa cosa era molto, molto interessante, insomma. Sì, perché diciamo le storiche, sia diciamo quelle indipendenti della prima ora, che erano militanti del movimento femminista, sia quelle che poi proprio anche con una intenzionalità politica hanno iniziato a studiare la storia, a professionalizzarsi come storiche, si sono dovute inventare le fonti, perché la storia, diciamo, nelle carte politiche, nelle fonti burocratiche, nelle fonti istituzionali, le donne ci sono poco e niente, se ci sono sono sempre rappresentate attraverso uno sguardo maschile, per cui la grande domanda che attraversa la storia delle donne di genere è come trovare le tracce delle donne del passato, che è inutile dirlo, c'erano e contavano tantissimo. Un primo, diciamo, grande aiuto è arrivato, come dicevi tu, dalle fonti orali che ovviamente avevano il limite di poter far accedere solo a storie tutto sommato vicine cronologicamente, per cui negli anni 70 si studiavano le donne nella resistenza perché erano ancora vive, si potevano intervistare, erano vicine generazionalmente, e quella fonte lì permetteva non solo di raccontare dei soggetti che invece nelle fonti delle organizzazioni, anche nelle celebrazioni del dopoguerra non erano raccontate, ma permetteva anche di avvicinare come dire, altre esperienze, come dicevo prima, anche rilevare il fatto che le donne nella resistenza ci sono state in molteplici modi e attraverso le fonti orali raccontavano anche quella che era la loro esperienza di resistenza, anche di resistenza civile, non solo armata, anche appunto gli assalti ai forni o quant'altro. Poi diciamo, negli anni successivi la storia delle donne si è molto complicata, nel senso di arricchita, e sicuramente è andata a guardare a una molteplicità di altre fonti. Penso a, per esempio, le storiche del Medioevo, di età moderna, che sono riuscite a fare degli affreschi delle epoche passate meravigliosi, attraverso le fonti notarili, i testamenti, ma anche, non so, le lapidi, oppure si sono prese in considerazione, come dicevi tu, le scritture private, le immagini, le canzoni anche. Persino gli oggetti sono diventate delle fonti parlanti, vivi, e questo, diciamo, ha permesso anche di restituire la complessità del passato, per cui si studia sì la storia istituzionale, la storia politica, la storia delle autorità, ma si studia anche come dire, la storia, lo dicevi prima, no? Dei ceti popolari, del quotidiano, di come le persone hanno vissuto i grandi eventi e non solo i grandi eventi. E insomma, poi alla fine tutto questo universo che è appunto il genere, e quindi applicare un'analisi di genere anche alla storia, si vede poi attaccato da appunto questa ideologia gender, diciamo, che tu racconti anche come un fantasma, anche perché sono essi stessi a o esse stesse a dire, ad esempio, sul genere, come che non sanno bene che cos'è, non sanno bene che confini ha. È qualcosa di pericoloso, come dicevi tu prima, perché è arrivato a dire che va a attaccare le stesse donne, defraudandole del loro unico potere, che è quello appunto riproduttivo, e rendendole in questo modo uomini, in realtà, nel senso sì, è esattamente quello che dicono. Sì. E mi sembra appunto una grandissima stortura e una grandissima invenzione, perché appunto in questo libro io ci tengo molto a raccontare come il genere sia stato soprattutto una categoria femminista, quindi che aveva, anche rispetto alle cose che stiamo discutendo molto questi giorni, la violenza, la violenza patriarcale, la violenza maschile, o chiamatela come vi pare, diciamo, la questione del potere che è dentro, che è stato costruito sulla differenza sessuale, è un potere molto concreto. Cioè, quello che io voglio dire in questo libro non è che quando parliamo di gender parliamo di abbigliamento o anche gusti sessuali e basta, cioè stiamo parlando di qualcosa di molto più strutturale e materialista, che ha a che vedere per esempio con il fatto che per secoli le donne sono state considerate inferiori agli uomini dal punto di vista intellettuale, per cui non hanno per legge e per questa ragione potuto per esempio frequentare le scuole, le università, non hanno potuto svolgere determinati incarichi pubblici, non hanno potuto svolgere determinate professioni, sono state sottomesse a un regime di disparità salariale, cioè le donne per legge hanno guadagnato metà degli uomini fino a ben oltre l'inizio della vita repubblicana. Ecco, tutto questo, questo per me è l'ideologia gender, cioè il fatto di aver costruito sulla differenza sessuale diciamo uno squilibrio di potere a partire dalle presunte implicazioni di differenti corpi, degli squilibri di potere che però hanno una ricaduta e un valore economico notevole, perché quando parliamo di squilibrio di potere stiamo parlando di diseguaglianza, stiamo parlando di sfruttamento, non stiamo parlando solo di mode e consumi, e questo penso sia importante dirlo e sottolinearlo. Assolutamente. E per arrivare alla fine della nostra chiacchierata, alla fine del libro dici una cosa che a me è piaciuta molto, cioè questa ideologia gender, anche se la vogliamo chiamare così, è pericolosa. Forse sì, e se è pericolosa e insomma incute timore in alcuni, e alcuni che fanno parte comunque di quell'orizzonte che appartiene alla destra populista, insomma razzista, classista, se fa paura, se è considerata pericolosa da parte di queste persone, è una cosa che insomma ci auguriamo e in realtà speriamo anche. Diciamo, non l'avevo preventivata all'inizio quando ho iniziato a scrivere questo libro, ma ci sono arrivata alle conclusioni pensando proprio che forse va bene che sia pericolosa, cioè va bene che ci sia qualcosa che è considerato un attacco alla naturalità dei rapporti sociali, perché quando diciamo si usa gender in contrapposizione alla naturalità dei ruoli di uomini e donne, dello squilibrio di potere tra uomini e donne, ma anche tra, ripeto, forme di famiglia differenti, forme di sessualità differenti, forme di identità di genere differenti, allora forse sì, forse va bene che ci sia qualcosa che mette paura, che sia considerato un attacco unitario, anche se poi questo attacco unitario così tanto non c'è, ma se c'è diciamo una sensazione di essere attaccate da parte e attaccati da parte di chi vuole la conservazione di questi squilibri di potere, ben venga, forse dobbiamo augurarcelo che il gender sia pericoloso. Assolutamente sì, ti ringrazio per essere stata prima di lasciarci, la domanda che facciamo di solito qui a Tabula Rasa è se ci consigli un libro che stai leggendo, ti piace, ti viene in mente in questo momento, qualsiasi cosa. Allora, per rimanere forse in tema, un libro che secondo me è altrettanto, cioè non perché mi è importante, facciamo così, un libro che è importante in questo momento, sempre di storia, Aborto, una storia, di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi, che è un libro che racconta la storia dell'aborto e della contesa intorno all'aborto nell'Italia repubblicana, quindi dal secondo dopoguerra a oggi. Grazie mille, lo leggerò sicuramente. Grazie a voi. E ti saluto, un abbraccio e grazie per essere stata con noi. Ciao. Buona serata. A ciao. Te, ciao. Sì. I came into this world, I had crack in me, and some blood on me and some lead in me. Death creaking, mama spitting, get your hands off me and get your chains off me. Get off me. Came in the world out the pussy, mama pushing. 5 seconds on the earth, block 50 from all the batches. Wanna be a master, benefactor, evil, evil. Back off the planet, damn it, can't stay there. Staring in my eye, roll the bars with my ancestors. Death the time, tongue hit my spine, keep my breathing in line. Now, back on the plane, I stay slanted. Lobbing like three wishes granted. Still the black woman ain't shit for you. I boss shit, most of them know cause they horse shit. Big donkey dick, I don't miss shit. My shit sit like milk and Clinton's breastfeeding in public while me mugging. I don't care either, I don't like Rita. Spit down the back like Frida. The whip beat like that, no figure hang that. Southern trees and no hook chain as a sniper. Said your man returning from the game with a hatchet. River green, 90 on. Rasa, e intanto diamo il benvenuto alla nostra nuova ospite, che è Federica Fugazzotto, che è una traduttrice. Grazie Federica di essere qui con noi. Grazie a te Tiziana. E allora, Federica ha tradotto un libro che siamo in realtà molto contenti di presentare qui a Tabula Rasa, perché è l'opera prima di un'autrice che amiamo moltissimo a Radio Onda Rossa, che amiamo moltissimo qui a Tabula Rasa, ma che penso anche chi ci sta ascoltando ama moltissimo, che è Bellux. Sappiamo essere lo pseudonimo. Bellux non è il vero nome di questa autrice, è lo pseudonimo che lei si è scelto. Il vero nome di Bellux è Gloria Jean Watkins. Purtroppo Bellux non è più con noi, è morta nel 2021, ma per fortuna abbiamo i suoi libri. E Bellux è, come abbiamo detto, il suo pseudonimo che in questo libro è particolarmente importante, perché questo libro è dedicato a Rosabel, che è la madre di Bellux, che si chiamava appunto Rosabel Watkins, e quindi Bellux ha scelto, diciamo così, di iniziare il suo pseudonimo con un pezzo di nome della mamma, appunto Bell. E perché è importante questo libro? Abbiamo detto è importante perché è l'opera prima di Bellux. Innanzitutto dobbiamo dire che questa autrice negli ultimi anni sta riscuotendo, diciamo così, una grande visibilità anche nel nostro paese, grazie all'opera degli editori che stanno traducendo via via le sue opere. Uno degli editori che sta traducendo le opere di Bellux è proprio l'editore di cui parliamo oggi, che è la Tamo Edizioni, e il libro appunto è Non sono una donna io, donne nere e femminismo, ed è un libro scritto da Bellux nel 1981, quindi stiamo parlando praticamente di più di 40 anni fa, un libro che diciamo ha più di 40 anni, ma che vi assicuro è di un'attualità sconvolgente. Perché? Perché ovviamente le relazioni che ci sono fra il razzismo e il femminismo sono parte integrante di quel femminismo intersezionale che è comunque alla base e al centro del dibattito attuale, diciamo così, no? del femminismo. E Bellux è una di quelle autrici che ha indagato in maniera più approfondita le relazioni fra femminismo e razzismo. Bellux è un afroamericano, è una donna nera degli Stati Uniti, una donna che, come lei racconta in questo libro, è stata educata nelle università segregazioniste americane e ha in qualche modo interiorizzato l'imperialismo americano. Lei lo dice non c'è stata nessuna differenza, no? Rispetto all'interiorizzazione che hanno le donne bianche dell'imperialismo, anche io ho interiorizzato l'imperialismo, non c'è stata nessuna differenza. La differenza sta nel fatto che ovviamente la mia esperienza di donna nera era assolutamente diversa dall'esperienza della donna bianca, pur condividendo ovviamente il ruolo, diciamo così, fra virgolette, di vittime del sessismo. Avevamo però delle esperienze completamente differenti, e da lì parte la sua riflessione attraverso, diciamo, dei saggi che poi vengono raccolti in questo libro. Ed è di questo che parleremo con Federica, è proprio di questo libro che parleremo con Federica Fugazzotto, ed è di questo, diciamo, di questi saggi di cui parleremo. E il libro, appunto, come vi ho detto, racconta l'intersezione fra il sessismo e il femminismo, e lo fa partendo dalle origini. E quali sono le origini di questo sistema, diciamo così, di interconnessione? Per Bellux le origini sono proprio la schiavitù, ed è di questo che vorrei iniziare a parlare con Federica, cioè della prima parte di questo libro, che possiamo considerare un po', diciamo, una grande prima parte, un grande approfondimento sulle origini del sessismo e del razzismo. E quindi ti volevo chiedere, Federica, cosa racconta Bellux delle origini dell'intersezione fra femminismo e razzismo, e perché pensi che questo racconto sia ancora attuale? Sì, come dicevi tu, lei traccia la convergenza tra sessismo e razzismo, torna indietro fino alla società coloniale schiavista americana. Questo perché? Perché lei sostiene che a causa delle gerarchie di potere che si erano venute a creare al tempo, la donna nera era la persona più oppressa in assoluto, oppressa a causa del sesso e oppressa a causa della razza. la donna nera e la schiava nera era vittima di violenze, di abusi della peggior specie, di molestie, eppure quello che era particolarmente sconvolgente era il fatto che in un qualche modo non si riuscisse a smantellare l'idea che fosse colpa sua, perché la donna nera in un qualche modo era di natura, questo ovviamente secondo la visione patriarcale, sessista e razzista del appunto del periodo di cui stiamo parlando, ma che poi purtroppo è perdurata, la donna nera è per sua natura una tentatrice sessuale, una peccatrice, è promiscua. E quindi cosa succede? Che se da una parte gli uomini bianchi si sentivano in diritto di fare quello che volevano sulla donna nera, la donna nera non poteva contare neanche sul supporto delle donne bianche, perché queste erano incattivite dal fatto che l'uomo nero fosse, l'uomo bianco fosse sessualmente attratto dalle donne nere. L'uomo nero a sua volta non poteva intervenire perché chiaramente era in una posizione, era anche lui schiavo, quindi non era nella posizione di poter intervenire. E poi con il trascorrere degli anni cosa è successo? Quello che dicevi anche tu dell'interiorizzazione di certe idee, in un qualche modo anche l'uomo nero ha interiorizzato questa idea, ha assorbito questa mentalità patriarcale bianca, per cui comunque le donne nere erano più promiscue delle donne bianche, che invece rappresentavano la purezza. Portando avanti di secoli questi stereotipi, al tempo in cui Bell Hooks scrive, ci dice che ancora in quel momento la donna nera è da una parte liquidata dalle donne bianche come se la sua preoccupazione per la sua esperienza non fosse importante, le viene detto sì, ma la schiavitù ormai è passata, la discriminazione razziale ormai non c'è più, anche se sappiamo benissimo che in quegli anni c'era. E dall'altra parte abbiamo gli uomini neri che dicono ma tu non ti puoi alleare con le donne femministe perché sono tutte bianche e sono razziste. Ora ho fatto una semplificazione molto grande, ma per dare un'idea generale del discorso, ecco. Assolutamente sì, e una delle cose, no, che vengono sottolineate nel libro in maniera molto chiara è proprio quello, no, che di cui stavi parlando adesso, cioè che se il razzismo si definiva come forza divisiva, diciamo così, potere divisivo fra gli uomini neri e gli uomini bianchi, in realtà il sessismo invece era una forza che li univa questi gruppi, e Bell Hooks lo descrive in maniera chiarissima, cioè come se il sessismo e il patriarcato, diciamo così, non avessero confini. Questo noi ce lo diciamo sempre, no? Cioè, insomma, le femministe se lo dicono, no? Il patriarcato non ha passaporto da questo punto di vista, quindi anche diciamo la donna nera all'interno in qualche modo della cultura maschile, patriarcale, nera, aveva un ruolo già sottomesso, diciamo così, all'interno della relazione. Però che cosa, dopo aver in qualche modo identificato come si può dire, le basi, le origini, diciamo, di questa intersezione, Bell Hooks fa un passo oltre, no? E va anche a indagare e a in qualche modo attaccare in maniera molto netta anche diciamo dei leader importantissimi, diciamo, dei diritti civili neri, no? Cioè lei parla di Malcolm X, parla di Martin Luther King, per non parlare poi del Black Power, quindi diciamo così del potere nero che si è innalzato a cantore e soprattutto anche armato contro il potere bianco. E lei ha la forza, l'intelligenza, la lucidità di dire a questi uomini neri che sono sostenitori in qualche modo di quello stesso patriarcato bianco che stanno attaccando. E questa penso che sia una delle parti più belle di questo libro, più interessanti, anche più coraggiose. Sicuramente, sicuramente, perché come dicevi tu e come accennavo, c'era questa idea che in qualche modo mettersi contro il Black Power, non contro, però avere la forza appunto di sostenere delle critiche contro di portare avanti delle critiche contro il Black Power significasse in qualche modo tradire la razza. E lei ci parla appunto per esempio di Malcolm X, della sua autobiografia, del fatto che anche lui comunque vedeva la donna come subordinata, come la moglie che stava a casa, che lo aspettava, mentre lui era sempre impegnato nella sua lotta. La donna non veniva contemplata nella lotta e comunque era vista come inferiore. E Bellux dice: ma allora per cosa stiamo combattendo, se in realtà voi vi opponete al potere bianco ma volete riprodurre esattamente lo stesso sistema patriarcale che i bianchi portano avanti da sempre? Perché voi dite che volete fare qualcosa di diverso quando fondamentalmente volete semplicemente che le cose vadano allo stesso modo, che tutto si ripeta allo stesso modo per voi come per gli uomini bianchi? Ed è una critica molto molto forte, sicuramente. Senza dubbio, io penso sia senza dubbio la parte che ho apprezzato di più del libro, perché lo fa poi nel 1980, quindi insomma in un momento esatto, no? In un momento in cui non deve essere stato facile per lei. E per lei e per altre persone che lo hanno fatto, devo dire anche uomini che sono stati poi infatti in qualche modo molto attaccati dal Black Power, e parlo ovviamente di James Baldwin, uno degli autori più importanti del Novecento statunitense, e quindi anche lui grande critico, diciamo, del potere patriarcale, del Black Power, uomo nero e gay, e per questo molto molto attaccato diciamo dai leader politici del Black Power, e attaccato dicendo anche, rimane interessante questa critica che veniva fatta a James Baldwin proprio per il nostro discorso, viene attaccato proprio dicendo che era stato in qualche modo influenzato e diciamo femminilizzato dalla cultura bianca, e questo ribaltamento è un ribaltamento che nel libro di Bellux viene molto ben delineato, no? Quando Bellux dice che durante la schiavitù quello che il potere imperiale, coloniale, bianco, americano faceva agli uomini neri era proprio quello di devirilizzarli. E invece il Black Power quella virilità se la rivendi, no? Se la rivendica, se la riprende e diventa, diciamo, in qualche modo la loro forza. E guarda caso, quegli stessi uomini neri che si riprendono, diciamo, la forza, la virilità, che se la rivendicano come caratteristica peculiare del maschile, vanno ad attaccare un altro uomo nero dicendo che invece è diventato bianco, quindi è diventato meno virile, no? È interessante come gli uomini da questo punto di vista gestiscano i loro rapporti di potere all'interno del genere soltanto attraverso la forza e la violenza, no? Questa roba qui è sempre molto interessante per me. L'ultima parte di questo libro è la parte in cui Bellux va dritta, diciamo così, al rapporto, invece, dopo aver gestito il rapporto fra i generi, quindi fra gli uomini e le donne, uomini bianchi, donne nere, uomini neri, donne nere, va invece a affrontare il punto della questione, cioè donne bianche, donne nere, quindi il rapporto fra il femminismo e diciamo il femminismo bianco e quello che poi, diciamo, viene considerato in maniera categorizzato come femminismo nero, e soprattutto quello che è, diciamo, quella che è la cecità di quel femminismo bianco, cioè in che cosa sono cieche le femministe bianche secondo Bellux? Secondo Bellux non riescono a vedere che c'è una profonda differenza di esperienza in quanto donne tra le donne nere e le donne bianche. Ed è qua che l'importanza, un'altra volta, l'importanza di Bellux è incredibile, perché porta il femminismo intersezionale, quindi diversi livelli di oppressione, l'oppressione sessista, l'oppressione razziale, al di fuori dei dibattiti universitari. E come tu dicevi all'inizio, il libro, l'influenza della madre sul libro è enorme, il libro è dedicato alla madre, lei ci teneva che le sue opere potessero arrivare a quante più persone possibili, anche a chi non aveva la possibilità di andare al college, di avere un'istruzione di livello superiore. Quindi lei finalmente riesce a portare su un piano più accessibile a tutti questo dibattito sul femminismo intersezionale, e quello che dice alle donne bianche: non possiamo veramente essere sorelle, non possiamo andare avanti se non ci rendiamo conto che il razzismo è una forza divisiva immensa tra di noi. E non importa, questo è molto interessante, chi abbia messo questo ostacolo tra di noi, a questo punto non importa più, quello che importa è che ci rendiamo conto che c'è questo ostacolo, che c'è questa divisione, e se non ci uniamo per superarlo, e superarlo vuol dire guardare il razzismo negli occhi, vuol dire ammettere che le esperienze delle donne bianche e le donne nere sono state profondamente diverse in America, se noi tutte non ci uniamo e non riconosciamo questa forza, la forza razzista, come una forza estremamente divisiva tra noi sorelle, allora la rivoluzione femminista è destinata a perdere. Ma se noi ci uniamo e prendiamo consapevolezza di tutte le forme di oppressione che una donna può subire, allora non c'è limite a dove possiamo arrivare. E sono molto d'accordo con quello che hai detto, nel senso che una delle cose più belle di questo libro, e che appunto non avevo detto in introduzione, è proprio il linguaggio che viene usato, quindi ti ringrazio di averlo sottolineato. È un linguaggio appunto che Bellux rivendica non accademico, proprio perché quell'accademia di quel momento, un'accademia bianca, elitaria cieca, non permetteva a tutte, in questo caso a tutte le donne, quindi anche alle donne nere, di poter accedere a quel tipo di linguaggio. Quindi grazie Federica di averlo sottolineato, e proprio collegandomi a questa cosa del linguaggio e quindi andando, come dire, a concludere la nostra piccola conversazione su Bellux, ti chiedo: che esperienza è stata tradurre questo libro? Come ti sei approcciata al linguaggio di Bellux e al modo in cui questo linguaggio debba essere gestito oggi, dopo 40 anni, in Italia, cioè in un'altra lingua, in un paese profondamente diverso, no? da quello statunitense? Sì, ma sicuramente ho sentito una responsabilità enorme. Conoscevo l'opera di Bellux, sono da molto tempo, ma avere la possibilità di tradurla, se prima è stato un momento di grande gioia, poi è seguito questo momento di grande senso di responsabilità, di renderle giustizia, e quindi mi sono approcciata al testo con grandissima cautela. Ogni parola è stata veramente sviscerata, pensando alla società di allora e alla società di adesso, e appunto, come dicevi tu, pensando anche a quanto è diversa la nostra società. Quello che ho cercato di fare è di cercare di mantenere il più possibile il modo diretto, come ci dicevamo, la sua capacità di non girare intorno alle cose, ma di sbattercele dritte in faccia, e questo a volte non è facile, però ecco, sì, ho cercato di mantenere un linguaggio incisivo, un linguaggio che andasse al segno, che andasse dritto al punto, e tenendo conto che Bellux non avrebbe voluto edulcorazioni, non avrebbe voluto, penso, questa è stata la mia riflessione da traduttrice, che Bellux voleva che questo libro, proprio perché ci dicevamo dovevo uscire dal dibattito dell'accademia, che questo libro fosse accessibile a tutti. Quindi è soprattutto su questo che mi sono concentrata. E devo dire che ci sei riuscita, quindi grazie. Quindi grazie Federica. Noi abbiamo appunto concluso la nostra chiacchierata e per salutarci e ti faccio la domanda rito che si fa qui a Tabula Rasa, una domanda semplice, non ti preoccupare, e è una domanda di rito. Noi chiediamo sempre a tutte le nostre ospiti e a tutti i nostri ospiti di darci un consiglio di lettura, quindi qualcosa che stai leggendo in questo momento che ti sta particolarmente piacendo o un libro che hai letto e ci puoi consigliare. Guarda, così su due piedi, perché l'hai citato ed è un autore che amo moltissimo, sicuramente l'avrete citato molte volte, ma secondo me per comprendere il discorso razziale in America, The Fire Next Time, La prossima volta il fuoco, di James Baldwin, è quello che mi sento di, è un libro a cui torno molto spesso. Beh, sono molto contenta di questo tuo consiglio. James Baldwin, La prossima volta il fuoco, edito da Fandango. E io ringrazio Federica Fugazzotto, ricordo a chi ci sta ascoltando di leggere, di studiare, di commentare, di riflettere insieme a Bell Hooks, Non sono una donna, io, donne nere e femminismo, Tamu Edizioni, sono 18 euro per circa 312 pagine, e grazie ancora a tutti e a tutti, grazie Federica, speriamo di avere occasione presto di parlare ancora insieme, magari su una tua nuova traduzione. Grazie Federica, grazie mille, grazie a voi. Ed eccoci tornate in studio, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, in chiusura quest'oggi, puntata dedicata alla saggistica. Noi ci rivediamo il prossimo giovedì con una puntata dedicata al mondo dell'illustrazione e del fumetto. Oggi di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di streghe, isteriche e untrici con una delle curatrici del libro. Poi abbiamo parlato di ideologia gender è pericolosa con l'autrice del libro Laura Schettini, e abbiamo concluso con Non sono una donna, io, di Bell Hooks, parlandone con la traduttrice Federica Fugazzotto. E noi ci riascoltiamo giovedì prossimo, ci vediamo in piazza sabato contro la violenza sulle donne di genere e accanto al popolo palestinese. Ciao! Ciao.